Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, la notizia non è ufficiale ma sembra essere qualcosa più di un'indiscrezione. Donadoni avrebbe raggiunto l'accordo col Napoli e potrebbe addirittura oggi pomeriggio stesso dirigere il suo primo allenamento. Avanti col condizionale ovviamente, avrebbe raggiunto stamane a Roma l'accordo col presidente De Laurentiis e sarebbe per l'appunto sulla rotta di Castelvolturno dove intorno alle 15 è fissata la ripresa degli allenamenti. Ovviamente vi informeremo in tempo reale se ci saranno sviluppi, ma questa è una giornata di Coppa e quindi al capezzale di A Tempo di Sport arriva come sempre il Ministro degli Esteri. Buongiorno Fabio Taveni. Ministro degli Esteri in Italia, buongiorno. In Italia, sì, certo. Sì, servirebbe anche un Ministro degli Interni oggi per seguire questa vicenda di Donadoni, ma insomma questa in qualche maniera... Vediamo di coprirla. Che vigilia è, non tanto per le nostre, perché insomma queste le sappiamo, poi ascolteremo le interviste, le voci e tutto il resto. Che vigilia è vista da parte britannica? Ma guarda Gigi, la solita vigilia degli inglesi, un po' divisa tra lo snobismo inglese sul fatto di molti siti, ma anche molti giornali questa mattina, leoni senza denti, insomma, l'hanno un po' giocata in anticipo, cose che solitamente non portano benissimo, tra l'altro. È vero. E gli inglesi poi se ne sono rimangiate tante, specie con la nazionale di queste paginate. E dall'altro anche un altro, loro cavallo di battaglia, soprattutto dei tabloid, di indicare le città italiane come dei luoghi inaccessibili oppure posti dove la sicurezza non esiste, o addirittura vengono consigliati degli itinerari ai tifosi dell'Arsenal per evitare certi luoghi. Io onestamente non so se Roma sia più o meno pericolosa di Londra, non so se i tifosi della Roma siano più o meno pericolosi di quelli dell'Arsenal. Beh, però insomma un paio di ponti sul Tevere in direzione olimpico con specialità puncicata, no? In effetti. Quello diciamo che è il minimo sindacale da conoscere per evitarlo. Però ecco, mi sembra un già visto. Sì, sempre. Un copione, questo sì, per loro lo è più o meno sempre. Sì. Le notizie d'agenzia per ora sono molto tranquille, si racconta di questi 400 tifosi del Chelsea che stamattina di buon'ora sono arrivati all'aeroporto di Torino con due charter, hanno visto il sole, erano già in canottiere. Canottiere, maniche corte, insomma, tutta un'altra... Sì, la vigilia calcistica è molto tranquilla, certamente parte da una situazione di forza, parte da una consapevolezza che gli inglesi hanno, e non è una consapevolezza in questo caso data dalla classica boria di chi pensa di aver inventato il calcio, o magari l'ho inventato davvero, ma qualche tempo fa. Qualche tempo fa, però invece questo viene dall'attualità, al punto che Blatter qualche giorno fa ha detto: sono un po' preoccupato dello strapotere della Premier League, ed è uno strapotere che poi si ripercuote fatalmente anche sulle coppe europee. E non so se le inglesi manderanno quattro squadre ai quarti di finale, è un dato di fatto che tutte e quattro le squadre inglesi hanno un risultato favorevole, chi più chi meno, nelle gare di andata, e quindi è chiaro che possono anche fare un po' i gradassi. Veniamo da una Champions League vinta da un inglese contro un'altra inglese, quindi direi che tutto questo è normale. Ci può stare. Le nostre squadre hanno giocato tutte e tre il sabato per preparare meglio, insomma, per avere un giorno in più di riposo, come è legittimo in vista di questo impegno. Bene, in tre squadre hanno perso per infortunio quattro giocatori: due l'Inter, Materazzi e Burdisso, uno la Juventus, Sissoko, e uno Sissigno, la Roma. Se parliamo di gravità, Sissigno è già stato operato, se ne fa per sei mesi. Se vogliamo ampliare lo spettro di questi ultimi giorni, ci sono ieri Ferreira Pinto dall'Atalanta, stagione finita per Maggio del Napoli e per Gargano del Napoli due o tre giorni fa. Sta accadendo lo stesso all'estero, ma mi pare non nelle stesse proporzioni, o sbaglio? Ma guarda, io invece direi che sta accadendo il contrario, nel senso che loro li stanno recuperando, nel senso che l'Arsenal non riesce a recuperare Fabregas e Adebayor, ma non riesce a recuperarli in tempo, perché comunque sono giocatori che entro la fine del mese torneranno a disposizione di Wenger. Hanno recuperato Eduardo ed è rientrato Walcott. Eduardo ha fatto un gol pazzesco domenica contro il Burnley, talmente bello quasi da farmi sospettare, perché un sinistro al volo tagliato così, o sei Gesù Cristo o se no sei molto fortunato, forse c'è anche una via di mezzo, e questo è stato Eduardo. Comunque Eduardo è a disposizione, come torna a disposizione Walcott, che è uno che negli spazi larghi è sempre meglio avere in squadra che contro. Sì. Certo che è al ritorno dopo un infortunio, però insomma sono forze fresche, come è la forza fresca di Essien, che è un giocatore straordinario nel centrocampo del Chelsea. Non è detto che parta, anzi probabilmente non parte, perché Obi Mikel comunque sta facendo una bellissima stagione, però è un'arma in più, considerando che si comincia in 11 e si finisce di solito in 11, ma non è detto che siano sempre gli stessi. Certo. Insomma, avere nel motore Essien da mettere a partita in corso non è male. Lo stesso Manchester United ha recuperato Rio Ferdinand e dunque giocherà accanto a Vidic. Diciamo che se dobbiamo fare la borsa, stanno peggio le italiane. Soprattutto, secondo me, è molto grave l'infortunio di Sissoko, perché insomma hai già perso Camoranesi a centrocampo. Non avere nemmeno Sissoko, secondo me, per la Juve questa è una brutta notizia. Non c'è dubbio su questo. Per movimentare un pochino la vigilia, sia pure devo dire in maniera molto sobria, Cristiano Ronaldo ha parlato della sua fatica crescente a non reagire ai falli degli avversari. Sono un bersaglio facile, ha detto lui, cerco sempre di controllare la mia rabbia, ma non è facile perché il livello delle provocazioni aumenta continuamente. Non mi sembra una cosa di gravità particolare per condizionare chi che sia o che sia domani sera. È però un tema che ogni tanto ricorre a proposito di grandi giocatori, Guardiola per Messi, ma accade anche in Italia. Sì, accade anche in Italia. Diciamo che Francesco Totti è il rappresentante massimo di questa cosa, cioè di giocatori che prendono molti falli. Ronaldo prende molti falli, Messi prende molti falli. La differenza, secondo me, è data in questo caso dall'astuzia, che è diversa tra i due, nel senso che Ronaldo è più un carro armato e quindi spesso va anche a cercare lo scontro, o quantomeno non lo va ad evitare, perché comunque ha una capacità di attutire i colpi e soprattutto ha una capacità di infliggerli anche i colpi, sì, che gli consente di fare spesso gara pari. Ronaldo è velocissimo, è uno che può fare anche sotto gli 11 nei 100 metri e quindi chiaramente si cerca di fermarlo con tutti i mezzi. Mi sembra strano che lui abbia detto questa cosa, nel senso che l'ho letta anch'io su un giornale inglese. Dico mi sembra strano perché di solito questo è una cosa che con gli anni migliora, mentre invece lui ha detto che peggiora. Cioè di solito uno, non essendo più un ragazzino alle prime armi e quindi magari capace di abboccare un po' più spesso le provocazioni, magari essendoci un po' più abituato dovrebbe migliorare. La grandezza di Leo Messi è data dal fatto che lui non soltanto queste cose le conosce, ogni tanto anche a lui un minimo di rabbia gli viene, ma è talmente magro, talmente gracile, che ha sviluppato una capacità tale di saltarle le trappole che fa sì che probabilmente e ad anche avuto più infortuni rispetto a Cristiano Ronaldo, fa sì che abbia una sensibilità maggiore per evitare i contatti, perché nei contatti lui è certamente sempre perdente. La Juve, ricorda Giovanni, un ascoltatore che ha appena scritto, ha perso anche Marchionni nel riscaldamento di sabato, è vero, sono 5 in realtà gli infortunati, poi Marchionni non ha giocato, ma avrebbe dovuto farlo. Una piccola finestra sui campionati, perché mi pare che due siano, vabbè, uno era già aperto la Germania, uno si è riaperto in pieno ed è in Francia, mentre invece si è, non dico richiuso, ma insomma si è un po' più, si è ricreato un minimo di forbice in più in Spagna. In Inghilterra mi sembra una pratica quasi chiusa. Sì, l'Inghilterra ha avuto il turno di FA Cup, quindi il campionato era fermo, però insomma, diciamo che lì il Manchester United lo ha abbastanza impacchettato. Poi vediamo cosa succede, nel senso che se il Manchester United esce dalla Champions League, credo che la Premier League sia ormai sicura. Per quanto riguarda la Spagna, io, come ti dissi settimana scorsa, non credevo alla crisi del Barcellona, nel senso che ho visto le partite che ha perso e non mi sembrava per niente una squadra in difficoltà. Poi può succedere di tutto, può anche succedere che vadano fuori contro il Lione, ma non credo. La squadra giocava comunque bene, prendeva dei gol un po' strani, e ne faceva di bellissimi, ma ogni tanto si specchiava un po' nella sua bellezza. Diciamo che stavolta al Real Madrid è andato bene di non perdere, perché nel derby contro la l'Atletico, ed è un Atletico che in questo momento sembra decisamente in crescita. Se una delle due avrebbe dovuto vincere, quella era l'Atletico e non certamente il Real. Ne è venuto fuori un pareggio, ma Agüero qualche rimpianto ai suoi l'ha lasciato. Il Barcellona ha vinto come doveva contro l'Athletic Bilbao e quindi è tornata a 6 punti, che è ancora una distanza accettabile perché c'è ancora lo scontro diretto e sarà a Madrid. Però è chiaro che insomma il Real Madrid non poteva continuare a vincere tutte le partite. Ogni tanto devi mettere anche in conto di pareggiarla, tenendo anche conto che il Real Madrid gioca questa sera una partita difficilissima a Liverpool. E io penso anche che il Real Madrid abbia minimamente pensato anche alla partita di questa sera, che è una partita quasi chiusa nel pronostico, ma quando c'è Real Madrid in campo è sempre meglio stare attenti. Questo certamente sì. Leggo da un'agenzia appena uscita che l'Arsenal ha distribuito persino una brochure ai suoi tifosi. Se vi recate da soli allo stadio olimpico a Roma, c'è scritto in questo opuscolo, sappiate che correte dei rischi. Non prendete il tram numero 2 che parte da piazzale Flaminio, non attraversate a piedi il ponte Duca d'Aosto, perché si tratta degli itinerari abituali degli ultrarumanisti, e tenetevi alla larga da Campo dei Fiori. C'è sempre un minimo di tattica, no? In questo sono copioni già visti, dicevi tu all'inizio, però insomma non sono cose belle da leggere e purtroppo, no, purtroppo non sono nemmeno così, così gratuite, no? Sinceramente. È verissimo, infatti probabilmente non ci sarebbe nemmeno bisogno di dargli questi consigli, però è vero, magari uno arriva a Roma per la prima volta, ci sono vari modi per affrontare una trasferta. Credo che andare in giro da soli senza vessilli possa essere già una buona idea. Se uno proprio deve essere da solo, magari è meglio che non esibisca troppi colori della propria squadra. Siamo sempre lì, in un mondo normale uno potrebbe andare ovunque con sciarpe e bandiere, insomma siamo in un mondo leggermente sotto la normalità e quindi ci sta tutto. Meglio un consiglio in più che un consiglio in meno. Ecco, sì. fare come al solito che arriviamo noi e voi siete il popolo dei barbari, forse non da loro, insomma. Peraltro gli inglesi quando stanno in trasferta non è che sempre si comportano benissimo, però anche qui continuiamo a generalizzare e non mettiamoci su questo piano, insomma. Dopo l'intervallo, che è quello della precandidatura che l'Italia ha presentato all'UEFA per gli europei del 2016, della serie riproviamoci e passiamo sopra alle brutte figure che abbiamo fatto anche in tempi molto recenti. E qualcos'altro da mettere a punto c'è, l'800 24 00 24, come sapete è il numero per entrare in diretta con i vostri interventi. Se parliamo invece di affari interni, momentaneamente, anche per introdurre un argomento successivo poi, molti ascoltatori, per esempio Giorgio Gifra che scrive da Alessandria, domandano se è vero il numero pubblicato, la tabella davvero inquietante pubblicata ieri da Tutto Sport. Io credo proprio che sia vera, e cioè il numero degli infortuni che la Juventus ha registrato dall'inizio della stagione a oggi è non so se dire ragguardevole, incredibile cifra di 54. 54 infortunati, cioè da una settimana in su di stop, con 43 problemi muscolari e 11 traumatici. Non solo, ma sui 26 giocatori della rosa della Juventus, 18 hanno avuto infortuni vari nel corso della stagione, plurimi come nel caso di Camoranesi e di altri, e soltanto 8 sono praticamente imbattuti. A me pare che questo dato renda ancora più meritorio il fatto che la Juventus sia ancora in corsa per il campionato, e stasera si giochi addirittura la possibilità di arrivare ai quarti di Champions League. Fabio, delle due serate credo che, insomma, se le esaminiamo nel loro complesso, sia domani quella più ghiotta, sì. come numero di partitissime, no? Poi, ma sì, certamente lo è, non solo perché ci sono due squadre italiane, perché c'è anche Barcellona-Lione che è una partita ancora aperta, pur se il Barcellona pareggiando all'andata 1-1, quindi pareggio fuori con gol una piccola ipoteca l'ha presa, però diciamo che questa sera c'è una partita che è chiusissima, che è Bayern di Monaco Sporting Lisbona, una che non ha particolare appeal, che è Panathinaikos Villarreal, e l'altra che è Liverpool Real Madrid, che insomma sarebbe più interessante se il Liverpool dovesse rimontare, però io non la non, poi magari non va così, però io non credo che Real Madrid mollerà poi completamente, perché certo il risultato è pesante e perdere in casa all'andata è certamente una montagna difficile da scalare, andare a vincere in casa del Liverpool insomma non sarà facile per Real Madrid, però comunque insomma, stiamo parlando di due vere potenze, di due vere forze, quindi è una suggestione forte, però certo se ci mettiamo a fare la somma, quella di domani è sicuramente è ancora più importante di quella, di quella di stasera. Chiuderei con questa notizia di Euro 2016. La notizia è per l'appunto che sono 4 i candidati che hanno manifestato il loro interesse all'UEFA per Europei 2016. E cioè, secondo quanto rende noto il sito ufficiale dell'UEFA, le candidature sono la Francia, l'Italia, la Turchia e una congiunta invece di Norvegia e Svezia. Questa è la risultanza del termine lo scorso 9 marzo, cioè di ieri, per la presentazione delle precandidature. Adesso c'è tempo, un anno grosso modo, per articolarle queste candidature. La domanda è non tanto, vista l'Italia, ma a un ministro degli esteri, vista da fuori, vista la Nyong in questo caso, che possibilità di accoglienza a parer tuo, dopo la figura è niente, come direbbero a Napoli, fatta dall'Italia non molto tempo fa, quando si vide preferita Ucraina e Polonia, quante possibilità ci sono che questo rilancio possa andare in porto? Ma visto così molto poche. È anche vero che è venuta immediatamente a tramontare l'ipotesi di agganciarsi alla Francia, che sarebbe stata comunque una sconfitta per entrambe, perché insomma stiamo parlando di nazioni abbastanza importanti calcisticamente. Venuto a mancare questo, la Francia ha deciso di correre da sola e insomma, i francesi hanno sempre un po' di grandeur in più degli altri e hanno già fatto delle cifre, insomma parliamo veramente di cifre importantissime per ampliare, per ammodernare gli stadi, che sono comunque discretamente pronti, almeno nella maggior parte dei casi. Noi abbiamo un problema infrastrutturale enorme, ci hanno preferito Polonia e Ucraina e non mi pare sia migliorato granché. Abbiamo degli stadi che vanno benissimo per la Champions League, perché ovviamente stiamo parlando di Milano, di Roma, di Torino, di Firenze, manca un po' tutto il resto. Io non credo che l'Italia parta completamente battuta, semplicemente per il fatto che, avendo perso di niente la competizione precedente, potrebbe anche essere che, chi lo sa, in qualche modo la si possa risarcire. Penso anche che se la Francia non commette degli errori con una presidenza francese in questo momento, insomma, avessi due euro da scommettere, li scommetterei sulla Francia. Quasi, quasi. Non mi pare che l'Italia si sia particolarmente organizzata. Il problema italiano, credo, non soltanto nello sport, è che noi lavoriamo bene o crediamo di lavorare bene nell'emergenza, cioè non prepariamo quasi mai niente e ci avventuriamo in questi progetti che sono olimpici piuttosto che di campionati del mondo, così, e da quando iniziamo a pensarci poi magari lavoriamo e poi magari ce la facciamo anche, ma se non c'è una scadenza, se non c'è un obiettivo, non si muove niente e si dimentica che invece avere stadi migliori sarebbe già una cosa migliore anche per il campionato, anche per le varie competizioni europee, e poi avremmo anche meno soldi da spendere evidentemente per fare competizioni a livello mondiale o a livello europeo. Grazie a Fabio Tavelli. A voi, buona giornata. Chiudiamo questo collegamento di oggi, grazie, ci risentiremo immagino nei prossimi giorni per le risultanze. La notizia che arriva da Roma è una buona notizia per Spalletti e riguarda Totti. Totti stamane ha sostenuto l'intero allenamento insieme ai compagni e quindi è recuperato, dovrebbe essere pienamente recuperato. Aquilani invece è rientrato negli spogliatoi dopo 10 minuti e questo è un brutto segno. Pizzarro, preparazione differenziata. E, insomma, Cassetti, Perotta, Sissigno e De Rossi squalificato, non se ne parla. Mexès ha la febbre, situazione se non più col recupero di Totti, non di emergenza totale ma di emergenza in assoluto, sì. È un po' meno tenero nei confronti della candidatura italiana il direttore del Guerin Sportivo Matteo Marani, che stamane commentando questa quella che ieri era un'indiscrezione, che adesso è diventata una notizia, dice: che ci volete fare? Quella dell'Europeo 2016 all'Italia mi sembra un'uscita più esilarante di un monologo di Crozza. Dipenderà forse dal fatto che la satira involontaria resta sempre la migliore. I nostri cari dirigenti, li ricordo bene, immobili coi volti terrei, a prendere dalla bocca di Platini del successo nel 2012 Polonia e Ucraina, notoriamente due grandi potenze del calcio. Speravo che la vergogna provata quel giorno da molti italiani consigliasse un processo interno, magari anche qualche epurazione in via Allegri, quantomeno un esame delle ragioni per cui una delle federazioni più importanti al mondo, fresca di vittoria a Berlino, fosse riuscita a incassare a Cardiff una figura ridicola. Invece no, mentre per i processi sportivi occorrono mesi e talvolta anni, per quelli della coscienza basta sempre meno. E così, per elaborare il lutto, nulla di meglio che tornare a ballare subito. Gli incartamenti e i dossier già c'erano, immagino non mancheranno nemmeno nuovi consulenti da ingaggiare, e un consiglio personale che è preferibile che sappiano almeno l'inglese dopo il ricordo della candidatura di Roma Olimpica. I primi due ascoltatori di oggi sono Roberto, che ha chiamato da Modena, e poi un ascoltatore di Carbonia. Roberto, buongiorno. Buongiorno a lei e buon pomeriggio a tutti. Io volevo fare una considerazione rispetto all'opuscolo che hanno distribuito ai tifosi dell'Arsenal e portare la mia testimonianza, visto che 15 giorni fa sono andato allo stadio a San Siro. Mi sono recato, come da consiglio, di buon'ora allo stadio, mi sono fermato a mangiare una pizzettina lì prima dello stadio, e dentro alla pizzeria c'erano due tifosi inglesi. Abbiamo scambiato due battute con il poco inglese che riesco a dire, e poi mi sono recato allo stadio, settore naturalmente dell'Inter, visto che io sono un abbonato dell'Inter. Sotto la mia postazione, cioè il gradino sotto, c'erano tre tifosi del Manchester con tanto di sciarpine. Abbiamo visto la partita tranquillamente, alla fine della partita ci siamo stretti la mano e ci siamo salutati. Quindi tutto questo discorso dell'opuscolo che ci descrivono come dei criminali, cioè, mi sembra, dalla parte inglese, visto che fanno tanto dei fair play, un po' esagerata. Volevo sapere cosa ne pensava anche lei. Penso, Roberto, che stiamo parlando di due realtà diverse, e anche in questa stagione ci sono stati nei posti che gli inglesi hanno esattamente indicato, ci sono stati gli agguati anche quest'anno. Poi la strategia di comunicazione da parte di osservatorio, da parte di questure, da parte di prefetture, è stata quest'anno quella di, direi, minimizzare, e può essere una strategia condivisibile entro certi limiti, ma qualche episodio grave c'è stato, sicché credo che legittimamente una società abbia il dovere di mettere al corrente la sua tifoseria di qualche rischio che può correre. L'habitat che c'era per Inter Manchester qua era evidentemente diverso, e se ne prende atto ben volentieri. Purtroppo una cosa non esclude l'altra. Christian scrive da Padova: volevo informarti che a maggio demoliranno lo stadio a Piani. Che tristezza. A me non risulta che a maggio demoliranno la Piani a Padova. Se poi è una cosa di queste ore, è diverso. Ma mi pare invece di ricordare che proprio lo storico capitano del Padova, Gastone Zanon, parliamo del capitano degli anni 50, ci ha informato due o tre settimane fa che alla Piana invece torneranno ad allenarsi dei giovanili. Poi, se faranno dei lavori di ristrutturazione, sarà un altro discorso. Comunque proveremo a seguire questa vicenda. C'è poi anche Udinese Zenit San Pietroburgo giovedì alle 20:45, l'ultima squadra italiana sopravvissuta alla falcidie in UEFA, e sarà Iturralde González l'arbitro, appena designato dall'UEFA per questa partita. Tocca a Salvatore da Carbonia. Buongiorno. Garanzini, buongiorno. Dica. Una cortesia. Sì. Siccome si parla sempre di calcio, se non un altro, si è parlato più volte cosa possono entrare nelle casse di una società calcistica tipo Juventus, Inter, che so io, Milan, eccetera, quando vincono la Champions. Così, a titolo, perché qualcheduno mi ha detto, dice sui 15 milioni di euro. No, di più, di chi più. Chi parla di 20, ma io penso molto di più. Penso anch'io molto di più. La cifra esatta adesso gliela tiro fuori con l'aiuto di Flavio Soadi, che in questi casi è il mio pronto soccorso e perlustra immediatamente tabelle e siti. Io credo che il vincere la Coppa Campioni porti dai 30 ai 40 milioni di euro come frutto immediato. Poi ovviamente ci sono gli indotti, poi ovviamente ci sono anche le spese, perché ci sono i premi ai giocatori e gli inevitabili ritocchi contrattuali che piaccia o non piaccia scattano poi in questi casi. Però viaggiamo grosso modo su quelle cifre. Io credo che 15, se parliamo di 15-20, stiamo parlando già di finaliste o forse anche di semifinaliste. Quando torniamo in onda tra pochi minuti, queste cifre un po' più dettagliate salteranno fuori. Grazie della sua domanda, Salvatore. Oggi c'è stata una partenza lenta, una vostra partenza lenta, ma mi sembra che abbiate riscaldato i motori nel frattempo. Allora, Michele da Padova informa che alla Piani buttano giù la tribuna per farne una in legno più piccola. E aggiunge, questo ascoltatore Michele, prima o poi capirò anche il perché. Vabbè, l'importante è che si parli di ristrutturazione e non di chiusura della Piani. La Piani è chiusa da tantissimi anni, ma insomma che non si parli di demolizione, che si parli di qualche tentativo comunque di recupero. Poi Paolo da Prato addirittura vorrebbe che io facessi la formazione d'attacco del Lì. Se lei fosse Mourinho, domani sera farebbe giocare Balotelli o Adriano? Farebbe giocare Balotelli tutta la vita, ma queste sono opinioni e soprattutto per fortuna non sono Mourinho. Il Milan ha incassato, vincendo la Champions, 65 milioni tra premi, partite e diritti televisivi, scrive Andrea, che non si accontenta di vincere ma vuole stravincere, quindi cita la fonte, il Sole 24 Ore. Questa non è male. E poi altri ancora. Se parliamo, per rispondere all'ascoltatore di Carbogna di prima, vediamo tutti i premi tappa per tappa della Coppa Campioni. L'UEFA assegna 3 milioni di euro ad ogni squadra che si qualifica alla Champions, anche per chi fa i preliminari, più 2,4 milioni per la partecipazione ai gironi. Durante i gironi ogni vittoria vale 600.000 euro e il pareggio 300.000, quindi sono 300.000. No, non appunto, se no sarebbero 900. 600 la vittoria e 300 il pareggio. Il passaggio agli ottavi vale 2,2 milioni di euro. Il passaggio ai quarti 2,5 milioni di euro. La semifinale vale 3 milioni. Chi perde la finale si porta a casa altri 4 milioni, mentre il premio per la vincente della finale è di 7 milioni. E poi ovviamente ci sono tutti gli indotti, con gli incassi, con la percentuale ulteriore di che entra nel marketing e tutto il resto, per cui si arriva a cifre sbalorditive che possono anche toccare, se non il centinaio di milioni di euro, quasi. Comunque è una gigantesca macchina da quattrini, la Champions League, così secondo me giustamente chiamata nella fase a gironi, e la Coppa Campioni come è ridiventata da 10 giorni a questa parte. Tommaso ha chiamato da Grosseto, buongiorno. Buongiorno. Dica. La prima cosa, volevo ringraziare per la sua trasmissione, perché mi tiene compagnia tutti i giorni ed è piacevolissimo da ascoltare. Questa è la bella cosa. L'altra cosa, io abito in una zona dove abbiamo avuto anche alcune partite della Viareggio Cup, il torneo giovanile, sì, che viene fatto tutti gli anni. E in queste società che vengono a giocare ci sono veramente società italiane. Ci sono veramente dei ragazzi che giocano molto bene, quindi il vivaio, diciamo, è vivo, è attivo. Però poi quando si arriva al tifoso, hanno pochissimi giocatori che trovano spazio, prendendo magari dei giocatori che ci fanno fare ogni tanto delle figurette, come con la Sampdoria. Il primo gol della Sampdoria, penso che qualunque difensore centrale italiano di 20 anni probabilmente quel gol non se lo sarebbe fatto fare. Che ne pensa? Penso che proprio il Guerin Sportivo di stamane, che ho sotto gli occhi, ho ritrovato la pagina, sia la migliore risposta all'osservazione che fa lei, perché ha pubblicato una tabella di tutti i giocatori di rosa, ma i giocatori che hanno già giocato, insomma, che potrebbero giocare nelle 20 squadre di Serie A e che arrivano direttamente dal vivaio. Allora, in testa c'è nettamente l'Atalanta, che ne ha 8, e parliamo di nomi che nel frattempo si sono affermati o si stanno affermando sempre di più, come Guarente, come Defendi, Bellini il capitano, eccetera. Poi scendiamo a 4, per esempio Cagliaritani, ma con pochi nomi conosciuti. Ci sono 4 juventini, che sono De Ceglie, Marchisio, Giovinco e Ariaudo, 4 milanisti, però uno è Maldini, poi l'altro è Antonini, ma Darmian e Strasserra, insomma, diciamo che non sono proprio di primissimo cosa. Credo che la squadra che è più innervata come qualità dai giovani del Vivaio, dai giovani, non più giovani, ma insomma dai giocatori del Vivaio, sia certamente la Roma, perché Totti, De Rossi, Aquilani e Okaka, se vogliamo aggiungerlo, sono che giocatori sono. E l'Inter dopo lunghissimo tempo, adesso oltre a Balotelli anche Santon, come è noto, e quindi cominciano ad essere due giocatori, due titolari praticamente su 11, comincia ad essere una percentuale un pochino più ragionevole. Saro ha chiamato la Catania, buongiorno. Buongiorno signor Garazzini, complimenti. Dica. Volevo dire che forse per quell'opuscolo inglese, no? Penso che hanno fatto bene i tifosi inglesi, che sono molto più specializzati nella prevenzione di come siamo qua da noi in Italia. Sono stati tifosi inglesi accoltellati in Turchia, e poi a Roma l'anno scorso, nello scorso campionato, ci sono stati tantissimi accoltellatori, anche i tifosi del Catania, volevo ricordare, ne hanno fatto le spese. Mm-hmm. Solo questo. Grazie Saro. È il momento di immergerci, magari è una parola eccessiva, ma insomma di cominciare a creare un po' d'atmosfera per questi appuntamenti di Coppa. Allora, sentiamo i buoni propositi per stasera del capitano della Juventus, cioè di Del Piero. Per quanto riguarda poi il discorso delle squadre inglesi, credo che negli ultimi anni ci sia stato una profonda cambiamento. Nel senso che si è investito parecchio, non solo a livello economico, ma anche nella qualità dei giocatori, negli allenatori, che introducendo anche allenatori stranieri hanno potuto mixare in alcuni casi in maniera splendida quello che è la forza del calcio inglese con quello che sono le forze di altri campionati. Quindi probabilmente hanno aumentato quelle che sono le loro caratteristiche, mentre prima erano molto forti in alcuni settori, in alcune cose, ora lo sono diventati su più settori, quindi si sono completate e lo hanno dimostrato. Ma da dove prende l'UEFA, domanda Cesare, tutti questi soldi? Dai diritti televisivi, caro Cesare, che per la Coppa Campioni raggiungono cifre assolutamente sbalorditive. Che fine hanno fatto invece, domanda Stefania da Belluno, tutti i soldi che il Milan ha vinto con le coppe campioni negli ultimi anni e con le partecipazioni? Sono stati usati per comprare chi? E fa alcuni nomi. Effettivamente forse non tutti gli investimenti sono stati felici, ci sono stati Pato, ma ci sono state anche altre disavventure di mercato, diciamo, a parte il fatto che poi mantenere quei campioni costa, perché non è che tenersi Kakà, così come gli Ibrahimovic e così come i Trezeguet, poi siano operazioni che non costano, sono operazioni onerosissime. Antonio, provincia di Alessandria, buongiorno. Sì, pronto? Dica Antonio, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Io volevo intervenire sul discorso dei tifosi inglesi che si affrontano la trasferta di Roma. Sì. Intanto premetto che sono un tifoso della Juve e riguardo all'ascoltatore che parlava prima, abbonato dell'Inter, volevo fare i complimenti ai tifosi dell'Inter, e lo dico io da tifoso della Juve, non è poco. Praticamente a me mi capita spesso di essere a San Siro allo stadio. Sono andato anche a vedere Inter-Juve, tutto compreso, maglietta, sciarpa, cappellino, non ho avuto nessun problema, nessuna parola, niente, quindi devo fare complimenti da questo punto di vista. Mentre non posso far altro che dar ragione agli inglesi che dicono che andare a Roma può essere pericoloso, perché comunque ci sono i precedenti e tutto il resto, quindi non vorrei dire che possono... Cioè, non vorrei dare torto completamente agli inglesi. Dopodiché speriamo che domani sera non succeda niente e vediamo. Niente, solo questo, grazie. Sì, grazie a lei Antonio. Tonino scrive da Padova che a maggio verranno demolite le gradinate della Piani e restano le tribune. È una notizia pubblicata oggi dal Mattino di Padova e quindi ecco perché c'è questa sensibilità particolare oggi, questo nervo scoperto sulla Piani, che torno a ripetere, l'ho già detto un sacco di volte, ma è sempre meglio una in più che una in meno. In qualsiasi altro paese la Piani sarebbe, per quello che ha rappresentato per Padova negli anni 50 e 60 e comunque per la bellezza di quel posto a due passi da Prato della Valle, in qualunque altro paese del mondo secondo me sarebbe monumento nazionale sicuro. Poi potrebbe essere un monumento nazionale da visitare semplicemente o da continuare a frequentare come stadio attraverso una ristrutturazione adeguata. Ma siamo in un altro paese, noi, molto molto speciale. Michele ha chiamato dalla provincia di Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno. Avevo chiamato anch'io per lo stadio di Padova, e rischio di già parlarti, dico una cosa veloce, aveva detto lo storico capitano del Padova che lo riportavano come era, diciamo, agli anni in cui è stato creato. Gastone Zanon. Come, scusi? Gastone Zanon, dicevo, il nome e cognome di quello. Non mi ricordavo più il nome. E vi ricordo che nell'intervento che aveva fatto la vostra trasmissione aveva detto che demolivano delle parti per riportarlo come era inizialmente. Certo. Poi facevo due punti sui tifosi. Io sono milanista, sono andato a vedere Milan-Lille nelle qualificazioni Champions League, ero nella tribuna di fianco alla tribuna stampa, e c'erano i tifosi dell'Il che giustamente alla fine della partita esultavano perché avevano vinto e sono stati un po' presi a male parole, quindi diciamo che gli inglesi non hanno tutti torti. E volevo fargli auguri alla Roma perché vinca lei la Champions League e complimenti all'Inter per Santon, la saluto, grazie. Grazie a lei. Le male parole non hanno, sono male, ma non hanno mai fatto male a nessuno. Insomma, credo che finché si rimane nell'ambito dello sfogo, della fischiata, insomma, comunque della, chiamiamola dialettica, anche se non è molto proprio come termine, sia un conto. Poi c'è ben altro invece con cui fare i conti. Ma oggi abbiamo sentito anche testimonianze positive e anche da parte di tifoserie rivali, quindi questo è un segno certamente positivo. C'è una frase inquietante per il mio pronunciata stamane da Kakà, che è appena rimbalzata sulle agenzie. Kakà ha detto: non appena riuscirò a gestire il dolore tornerò a giocare. Non è inquietante in sé, è inquietante perché mi ricorda e credo proprio di non sbagliare la stessa frase che cominciò a dire una volta e poi ripeté spesso uno che si chiamava Marco Van Basten. Il mio problema è cominciare a convivere e poi a gestire il dolore. Ricordo quando disse quella cosa, quindi ovviamente i milanisti sono autorizzati a fare gli scongiuri, ma leggere questa frase su una notizia dell'agenzia sinceramente mi ha rimandato a quel precedente. Per fortuna la storia non si ripete mai. Andrea ironizza: è vero, a Roma tirano anche i motorini agli spalti, Milano è più sicura. Andrea, la battuta è buona, i motorini li hanno tirati a Milano, però stiamo parlando, il motorino, ma stiamo parlando, se non ricordo male, del 2001 o 2002 al massimo. Credo che da allora Milano qualche piccolo passo avanti dal punto di vista della sicurezza o delle intemperanze l'abbia fatto, anche se ci sono ancora stati episodi abbastanza brutti. La situazione a Roma da allora è peggiorata su entrambi i fronti di tifoserie, anche per problemi, insomma, per alcune problematiche tutte abbastanza gravi. Questo è un dato oggettivo. Il ripasso di storia è a cura, come sempre, di Nicola Filippone. Sembra ieri. 10 marzo 1991. La stagione della Formula 1 comincia a Phoenix, Arizona, ed è subito all'insegna di Ayrton Senna. Il detentore del titolo iridato su McLaren domina il Gran Premio degli Stati Uniti, precedendo sul traguardo la Ferrari del suo acerrimo rivale Prost e la Benetton di Nelson Piquet. Si compone così, con tre campioni del mondo, uno dei podi più nobili nella storia della Formula 1. Senna rimarrà in testa alla classifica generale fino al termine della stagione, riuscendo a conquistare il suo terzo e ultimo mondiale. Gli ascoltatori, per concludere questo appuntamento di oggi, anche se avremo ancora qualche voce da ascoltare. Comincia Antonio da Napoli, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini e complimenti per la trasmissione. Ho chiamato principalmente per il Napoli, insomma, per la crisi che ci sta attanagliando. Notizie nuove? No, glielo dico, non ce ne sono. Donadoni sì, Donadoni no, sa qualcosa, ci venga informato perché siamo Ci venga incontro, pensavo. No, io volevo sapere qualcosa da lei perché stanno nel mondo, nei piani alti, può darsi che ci sollevi un po' il morale. Ma insomma, quali piani alti? L'ho detto in apertura che Donadoni, insomma, secondo un'indiscrezione che era rimbalzata poco prima che andassimo in onda, cioè diciamo grosso modo un'oretta fa, Donadoni sarebbe stato già addirittura in viaggio per Napoli per dirigere oggi il suo primo allenamento a Castelvolturno. Però è passata più di un'ora e gli scontri non ce ne sono. Stiamo perlustrando quello che possiamo perlustrare, ma conferma o smentita non arrivano. In questi casi poi arrivano o conferma o smentite, in genere è una statistica ormai dopo quasi 10 anni, una trentina di secondi dopo che abbiamo chiuso il programma, ma tant'è, insomma l'orario di messa in onda è questa e non è, se vogliamo, la più favorevole, no? per lo sviluppo di notizie. Antonio, ma lei che fa? Vuole Donadoni o se la cavarei in qualche maniera? Onestamente mi dispiace per te, perché si è comportato bene a Napoli, insomma ha sofferto con noi, con noi tifosi, insomma ha fatto un suo percorso intelligente anche sotto profilo tattico, insomma, se vogliamo discutere su questi argomenti. Però adesso io penso che sia anche il caso di cambiare, anche perché poi secondo me la società ha commesso un grande errore a gennaio, quando noi eravamo in profumo di Champions, non ha fatto lo sforzo finale per investire qualcosa per dare il cambio ai nostri Lavezzi, Hamsik, Gargano, e poi adesso insomma inevitabilmente sono visti i risultati, insomma. E quindi secondo me la società ha sbagliato solo in questo frangente di gennaio, perché poi per il resto insomma, Antonio, non ci dimentichiamo che De Laurentiis si ci ha salvato, insomma. Quindi, sì, difatti io direi che quel profumo di Champions era anche, no, era uno di quei profumi che passano, che non riesci nemmeno bene a catturare, a renderti conto esattamente di che profumi sono. Era un profumo più generico d'Europa, indubbiamente ci poteva stare, magari ci potrebbe stare ancora, perché così come arrivano le crisi arrivano poi anche i momenti di risalita. Non è detto che a un filotto negativo non segua poi invece un filotto di tutt'altro segno. Certo, oggi la situazione è oggettivamente pesantina. Jacopo dalla provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, volevo sapere cosa ne pensa delle dichiarazioni, non so se le ha sentite, le ha lette, del presidente onorario della Fiorentina Della Valle a proposito del tetto ingaggi, che voleva parlare con Platini per vedere di ridurre i costi, anche perché insomma, considerando la crisi generale che ha investito tutto il mondo, si parla ancora sempre di giocatori che prendano un sacco di miliardi, mentre c'è gente che continua a non arrivare e ce n'è sempre di più a fine mese. Sì, non l'ho letta sinceramente, per cui magari prima la leggo, perché messa così c'è dentro tanto buonsenso e con la consueta spruzzata di demagogia, quindi sarebbe, prima di commentare una dichiarazione di quelle per l'appunto minimo impegnative, tanto vale documentarsi un po' meglio, sicché al momento non ne penso nulla. Penso che si dice sempre che sono sempre i migliori che se ne vanno, invece i migliori ogni tanto ritornano, se parliamo di presidenti, perché è tornato il leggendario Gaucci. Sono rientrato, ha detto Luciano Gaucci, perché come romano e come italiano era giusto tornare a casa, ma dico subito che non intendo rientrare anche nel mondo del calcio, lo seguirò solo come osservatore esterno. Quindi questa non so se è una notizia che getterà nello sconforto gli appassionati o se invece li rassicurerà. Ha poi anche aggiunto: so che è stato fatto il mio nome per il Torino, ma non è vero. E questo, insomma, viste le disavventure che Torino ha già avuto e sta continuando ad attraversare, questo perlomeno è una cattiva notizia in meno, mi pare. Jacopo dalla provincia di Pisa, buongiorno. No, Jacopo dalla provincia di Pisa, chiedo scusa, era l'ascoltatore precedente, stavo perlustrando le agenzie, ho perso il filo per vedere se arriva qualcosa da Napoli, ma al momento ancora non c'è verso. Michele ha chiamato da Bergamo, buongiorno Michele. Buongiorno Garanzini, le volevo fare i complimenti per la sostanza che ci mette, perché no, quei tempi che corrono non è roba da poco. E volevo appunto citare, lei un attimo fa ha parlato dei settori giovanili, volevo citare appunto l'Atalanta, che conoscendo Favini, lei lo conosce Favini, penso sicuramente. Favini è uno dei principali scopritori di pepite d'oro nei vivari di tutta Italia, e non solo le scopre, le pepite, ma poi le fa crescere. Bravissimo, e volevo dire, gli fa crescere non solo a livello tecnico, ma anche a livello umano, perché Pensi solamente che Balotelli era all'Atalanta, praticamente è stato scartato perché ha avuto per problemi disciplinari. L'esempio al contrario sta facendo. La dice lunga, eh. Sì, no, non è proprio politicamente correttissimo quello che lei ha detto, però capisco il senso, effettivamente. Michele, grazie. E andiamo da Mario, provincia di Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Senta, sentivo con interesse precedentemente, parlava di stadi. Sì. E io vorrei fare il punto della situazione. Sono tifoso juventino e sono felice che la Juventus sarà la prima società ad avere uno stadio di proprietà. Sì. E sperando che si vada sulle orme ben calcate che hanno avuto gli inglesi qualche anno fa. In quanto loro prima di sistemarsi gli stadi hanno sistemato le loro tifoserie, hanno creato degli ambienti sani, puliti, dove la gente poteva portare i propri cari, i propri bambini ad assistere ad uno spettacolo sportivo. Io spero che, e dopo di ciò sono piovuti anche i capitali esteri, vedi Abramovic, vedi Emirates e compagnia bella. Io spero che un esempio che la società bianconera dia al calcio italiano in tutti i sensi. Ecco, mi auguro questo. Le premesse ci sono, credo che l'intento di Blanchi in particolare sia proprio questo. Poi bisogna sempre vedere, perché seguire i modelli virtuosi che arrivano da fuori è l'operazione migliore. Ma non è detto poi che ci si riesca. È giusto provarci, è giusto provarci in questi termini. Non è giusto dar retta alle indiscrezioni, invece, e lo dico proprio in chiusura di programma, perché a differenza, proprio al contrario di tutto quello che avevo provato a dire prima, sia pure a condizionale, De Laurentiis ha confermato la fiducia a Eddie Reia. Quindi no, non era affatto vero di un incontro stamane con De Laurentiis e Donadoni, oppure se c'è stato non è andato a buon fine, perché c'è stato invece un faccia a faccia tra De Laurentiis e il direttore generale Pierpaolo Marino. Nel pomeriggio ci sarà ripresa delle preparazioni del Napoli in vista della trasferta di domenica a Reggio Calabria, ma Reia è stato ufficialmente confermato. Beh, se non altro, anziché 30 secondi dopo, questa oggi è arrivata 30 secondi prima. Grazie allora a Flavio Suari in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Vi lascio al giornale radio, ci sentiamo domani.